Già accennavo ieri che questa settimana il nostro rito ambrosiano ha, durante la messa, delle antifone all'ingresso, al Vangelo, dopo il Vangelo, allo spezzare del pane, alla comunione, ha delle antifone controcorrente, con un linguaggio che non si sente più. E io vi commentavo ieri, quella all'ingresso, anima mia, basta ormai col peccato, pensa che puoi morire all'improvviso e cadere nell'eterno tormento, dove la penitenza non vale più niente. Convertiti dunque e grida al Signore, pietà di me, tu che salvi. So che qualcuno è rimasto toccato dalla forza di queste parole. Presumo che qualcuno sarà rimasto urtato, penso, perché dice: ma queste parole non si usano più, ma queste parole sono il retaggio, sono l'eredità di una mentalità arcaica, vecchia. E allora io continuo e vi dirò anche il perché. Continuo leggendovi, per esempio, allo spezzare del pane. In piena vita ci è sopra la morte. Dov'è il nostro aiuto se non in te, Signore? Santo Dio, santo forte, santo pietoso Salvatore Gesù, non abbandonarci alla morte eterna. E il canto, l'antifona alla comunione. Contro te abbiamo peccato, Signore, chiediamo un perdono che non meritiamo. Tendi la mano a noi che siamo caduti, tu che al ladro pentito apristi il paradiso. La nostra vita sospira nell'angoscia, ma il nostro agire non si corregge. Tu aspetti, ma noi non ci pentiamo. E anche se tu punisci, non resistiamo. Tendi la mano a noi che siamo caduti, tu che al ladro pentito apristi il paradiso. Io volentieri mi sono soffermato a meditare queste parole, a pregarle, a dirle al Signore: fatte mie, lex orandi, lex credendi. Ciò che tu preghi devi anche crederlo. E per quanto qualcuno potrebbe dire è roba vecchia, dico: hai ragione, è così vecchia che risale al Vangelo. Perché nel Vangelo ci sono questi discorsi, amici. Noi siamo abituati a prendere come al supermercato il prodotto che preferiamo. Qualcuno lo lasciamo sullo scaffale perché non ci interessa. E in genere questi prodotti non sono in promozione. Se io guardo il Vangelo contiene tantissime parole consolanti, tantissime parole di tenerezza, ma contiene anche parole tremende. Ricordate la parabola del ricco e del povero Lazzaro? Uno va in paradiso, l'altro va all'inferno. E non c'è più comunicazione tra paradiso e inferno. E quando il riccone dice: manda qualcuno a avvisare i miei fratelli che c'è qualcuno che sta seguendo la mia strada, Abramo gli dice: no, hanno i sacerdoti, hanno la parola di Dio, ma non la ascoltano. Lo so, dice Abramo, ma se non ascoltano la parola di Dio non crederanno neanche a un morto che ritorna in vita a dire queste cose. È vero, amici, fin da allora e ancora oggi noi siamo chiusi a questi appelli alla conversione. Ma ci ricordiamo anche della parabola di quel grande imprenditore agricolo che è così capace di far produrre la sua terra e dice: ma c'ho troppa roba io, mi mancano i magazzini, devo provvedere, perché poi dirò: anima mia, stai tranquillo, paci la tua panza e stai stolto. Questa notte tu morirai e tutto quello che hai messo insieme dov'è? Oh amici, come abbiamo bisogno di meditare su questa parola. Stolto, tutto quello che c'è in casa tua, quello che hai accumulato, i soldi che hai messo giù sul tuo conto, perché non si sa mai, è vero, non si sa mai. E poi? Non potevi darne un po' ai poveri? E le vergini stolte? E le vergini sagge? Quando la porta è chiusa, è chiusa. Ma che Vangelo abbiamo, ma che Dio severo, incorreggibile. Ma no, il Signore ci dà queste possibilità, ci manda la parola di Dio, ci manda i sacerdoti per dirle. E che dire infine del giudizio finale? Io me lo sono andato a rileggere le ultime parole, perché me le ricordavo come tremende e mi sono detto: ma no, forse mi sbaglio. Invece stanno lì. Via, lontano da me, maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi seguaci e per i suoi angeli persi. Cari amici, la Quaresima che possa essere un momento forte di riflessione su queste parole, e se non ci basta, a me basterebbe, se non ci basta, pensiamo che i santi hanno vissuto una vita forte, una vita di passione e di risurrezione. Pensiamo al solito Padre Pio, ma che ben venga meditare cosa ha fatto, cosa ha patito e che gigante è stato. Ma lo sapevate che Madre Teresa di Calcutta è stata per quasi tutta la sua vita nel buio spirituale, eppure ha continuato a fare quello che ha fatto? E se andiamo anche nel 1500, anche Santa Teresa d'Avila ha avuto, pur stando in convento, ha avuto 18 anni di buio spirituale. Cari amici, per fortuna la parola di Dio ci strappa fuori dalla nostra faciloneria. Allora vi auguro, tenete caro il messalino quotidiano, tenetelo stretto a voi, e vediamo anche le prossime settimane di Quaresima di approfittarne per vedere di convertirci sul serio, perché è in gioco la nostra salvezza. E per la nostra salvezza si intende la scelta tra il paradiso e l'inferno.